Siamo qui alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci allora per parlare dell'attualità politica. Intanto voglio salutare il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Buongiorno, ben ritrovato Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, prima dell'attualità, le piace quello che è successo a Milano con la movida milanese bersagliato, i commercianti milanesi con il blitz, anche se i commercianti dicono non chiamatelo blitz che non siamo mafiosi, però la Guardia di Finanza che è andata a controllare le evasioni fiscali presunte o previste? Sì, parliamo di controlli che stanno avvenendo in varie zone d'Italia, è giusto che questo accada, appunto non diamo l'idea che sia un attacco contro la mafia o contro qualcosa di negativo, sono i controlli sul territorio per sanare eventuali irregolarità, ma anche per constatare che altre cose vanno bene, quindi si tratta di una modalità comunicativa, se lo diciamo in questo modo credo che le cose siano giuste. Però c'è un qualcosa di nuovo, voglio dire, dopo Cortina si è visto, entrano durante, non so, le cene del sabato sera, e la modalità se non altro è nuova, cos'è, una lotta alla possibilità di evasione fiscale che alza il tiro? Sì. Il significato detto è questo, ci attendiamo che avvenga anche in altre zone d'Italia, finora diciamo che è stato preso di mira soltanto il nord, beh, penso che estenderlo a tutte le regioni d'Italia sarebbe opportuno, anche perché le statistiche dicono ad esempio che in una regione come la mia, nella Lombardia, l'evasione è la più bassa d'Italia, quindi è giusto andare dappertutto, ci attendiamo che vadano dappertutto. Anche al sud Italia. Senta, l'attualità politica, siamo sempre lì, ma questo Bossi che dice Berlusconi fai cadere Monti o noi facciamo cadere Formigoni, lei come lo interpreta, al di là della minaccia politica personale? Credo appunto che non ci siano e non ci saranno seguiti in Lombardia, perché la Bossi sa bene che la Lombardia ha raggiunto tanti primati attraverso questa amministrazione, che tra l'altro andiamo avanti dal 2000 a governare insieme Popolo della Libertà e Lega, i cittadini ci hanno confermato più volte con consensi crescenti, per il resto è chiaro che Bossi vuole che il Popolo della Libertà stacchi la spina, per usare questa orrenda espressione, a Monti, tolga la fiducia a Monti, ma noi ci siamo assunti un impegno molto forte, molto serio, il governo Monti nasce in condizioni di necessità, con un attacco terribile della speculazione internazionale all'euro e al nostro paese, e quindi era giusto mandare al mondo il segnale di una larghissima base parlamentare per un governo che doveva fare delle riforme, che deve fare delle riforme per tirar fuori l'Italia dalla crisi economica. Quindi il nostro atteggiamento di responsabilità non cambierà, ovviamente a patto che il governo Monti faccia le cose per cui è stato insediato e ha avuto la fiducia, cioè prenda provvedimenti che realmente rilancino la crescita del nostro paese. Quindi secondo lei deve andare avanti ancora un anno, perché per Calderoli ci sono le idi di marzo che arrivano per far cadere Monti? Ripeto, si tratta di valutare momento per momento i provvedimenti che il governo Monti prende, se il governo Monti discute questi provvedimenti con i partiti che lo sostengono ed evidentemente anche col Popolo Libertà, che è il partito in maggioranza relativa, se prende dei provvedimenti magari amari, la prima fase è stata certamente caratterizzata da un eccesso di tasse, quindi ci sono dei meccanismi da correggere, ci sono delle riforme importanti da fare, penso alla riforma del lavoro. Fino ad ora sono stati penalizzati, diciamo così, o sono state prese delle misure che penalizzano soprattutto ceti che normalmente votano centrodestra. Adesso ci attendiamo a una riforma del lavoro che è chiesta dalla Banca Centrale Europea, che è chiesta dall'Europa, una riforma del lavoro che sia forte e seria. Ecco, se il governo Monti va avanti facendo le cose equilibrate non merita di essere mandato a casa in maniera anticipata, perché deve fare queste riforme che i 20 anni di politica precedente non sono riusciti a fare. Per esempio l'articolo 18, lei questa formula per cui i nuovi assunti non vengono tutelati all'articolo 18, cioè assunti a tempo indeterminato ma licenziabili con un risarcimento, la formula Ichino, tanto per dire, le piace? Ma guardi, è stato lo stesso Presidente Monti che ha detto che quando si comincia a discutere si deve poter discutere tutti, ecco, io mi attendo che la parola di Monti sia mantenuta, quindi che si discuta di tutto ciò che può rendere il mercato del lavoro più flessibile, ovviamente dando delle forme di garanzia di sicurezza, ma che non siano le forme di garanzia di sicurezza di un mercato del lavoro immobile, marmorizzato, come fu fatto 30 anni fa. Una settimana fa, proprio a questi microfoni, presidente Formigoni, il sindaco di Verona, Tosi, ha detto: beh, Formigoni deve spiegare, la questione diventa un caso anche politico, le non poche vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo alcuni esponenti che sono stati anche in posizioni importanti in Regione Lombardia e anche vicini politicamente al presidente Formigoni. Lei l'ha sempre rubricata come casi personali, con no? La stessa moneta, ci sono nel Consiglio regionale lombardo delle ricerche, delle inchieste della magistratura che toccano esponenti di vari partiti, compreso il partito del sindaco Tosi, questo non va mai dimenticato, e compresa l'opposizione. Ma vede, io sono responsabile del governo di Regione Lombardia, cioè della Giunta, e nei confronti della Giunta non è stata sollevata nessuna obiezione, quindi anche Tosi e tutti gli altri non facciano delle strumentalizzazioni. Il Consiglio regionale è stato, come dire, investito innanzitutto dal ciclone Penati, e quando fu investito Penati di accuse gravissime nessuno strumentalizzò dicendo: è colpa del Partito Democratico, si dimetta Bersani che ha scelto Penati come suo principale collaboratore, perché Penati è stato il collaboratore della segreteria, il coordinatore della segreteria del Partito Democratico. Nessuno chiese allora le dimissioni di Penati, perché le responsabilità sono personali. Lasciamo che la magistratura lavori, ripeto, nei confronti degli esponenti del Partito Democratico, della Lega, del Popolo della Libertà, e poi si deciderà. Quindi lei nega che ci sia un problema politico, cioè di persone che erano vicine politicamente a lei, sono questioni personali, insomma, che si allora devono... Le persone vicine politicamente a me sono persone del Popolo della Libertà, le persone del Partito Democratico sono persone vicine a Bersani, le persone della Lega sono persone vicine a chi? Cioè, ripeto, c'è un eccesso di strumentalità assoluta. Se vogliamo fare il conteggio in questi termini, è ovvio che lo si fa soltanto per polemica politica. Non credo che sia legittima questa polemica politica, anche perché vede, le persone del Popolo della Libertà, a differenza degli altri partiti, sono sotto indagine per comportamenti extrapolitici che riguardano le loro attività professionali, quindi siamo veramente distanti dalla politica, e quindi gli attacchi strumentali contro la mia giunta, contro la mia stessa persona, sono appunto strumentali e del tutto infondati, come ho detto decine di volte. Vorrei poter parlare delle cose, dei risultati che Regione Lombardia sta ottenendo, sì, perché se siamo la regione più efficiente d'Italia, riconosciuta da tutti, questo lo si deve proprio all'azione del mio governo. Se siamo quelli che spendono meglio i soldi dei cittadini, abbiamo ad esempio un servizio sanitario che costa meno rispetto agli altri servizi italiani, da più servizi, beh, questo vorrà dire qualche cosa, no? Vorrà dire anche che le altre regioni che spendono molto di più e danno servizi molto minori, beh, si indaghi un po' anche lì per vedere, probabilmente ci sarà una corruzione molto elevata. Ecco, quindi benissimo quello che viene fatto in Lombardia dal punto di vista delle indagini, ma ci sia un'attenzione altrettanto forte, e forse più forte, laddove ci sono sensazioni di corruzione molto molto più elevate. Un'ultima cosa, è vero che c'è un rimpasto in giunta però in previsione questa settimana? Ma ci sto lavorando, guardi, si tratta di rendere il governo sempre più efficiente, è per questo che abbiamo ottenuto risultati, perché ho sempre ritoccato qualche cosa, perfezionato qualche cosa, e anche in questo caso sto lavorando in questa direzione. Io intanto la ringrazio, buona giornata per essere stato con noi, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che è stato con noi per parlare, insomma, dell'attualità politica. Intanto noi, dopo la pubblicità e il meteo, avremo ospite il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Filippo Patroni Griffi per parlare delle tante novità che da venerdì il Consiglio dei Ministri ha attuato per quel che riguarda le semplificazioni, la sburocratizzazione per le famiglie, sui documenti, per le imprese. Insomma, parleremo di questo. Per il Ministro della Pubblica Amministrazione, che riguarda dunque milioni e centinaia di migliaia di cittadini dipendenti pubblici, sarà con noi fino alle 8.55, tra poco, dopo la pubblicità del meteo. Sì, cara, da oggi si risparmia. Cominciamo. L'estetista? Taglia. Il personal trainer? Taglia. Internet? Taglia. Ma come tagliamo internet? Da oggi c'è la chiavetta 3. Abbiamo internet veloce, risparmiando. Solo con 3 puoi avere una chiavetta internet veloce ricaricabile a 19 euro. E con soli 3 euro alla settimana hai 60 ore al mese di internet incluse. Il cane? Taglia. Sotto rete 3. Per info su copertura, condizioni, extra soglie e velocità di connessione, 3.it o il 3 store. 3. Debiti? Risolvi il problema con BCI. Vai su bcisrl.it o chiama 895-895-0845. Debiti? BCI. Una risposta concreta. Qui non facciamo trucchi. Solo chi merita diventa Rosaria. Arancia Rosaria. Povera di calorie, ricca di vitamine e sali minerali. E oggi anche in brick. Spremuta 100% di arancia rosaria, fresca tutto l'anno. Arancia Rosaria. La salute viene mangiando e bevendo. Contabilità, bilancio, fatture, clienti. Vuoi uno strumento veloce per gestirli? AirReady è il software che fa per te. www.esasoftware.com 800 01 6756. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Il nucleo di aria fredda che nelle ultime ore ha portato nevicate al nord-ovest si dirigerà oggi verso il Mediterraneo, portando forte instabilità all'estremo sud e in Sicilia. Nella seconda parte della settimana si conferma l'arrivo di aria molto gelida. Nel dettaglio oggi avremo schiarite al nord-est e regioni centrali tirreniche e poi ancora molte nuvole nelle altre zone con piogge sul medio-basso Adriatico, sud e isole, particolarmente intense fra Sicilia e Calabria. Quota neve intorno ai 500-600 metri sull'Appennino centrale, 800-1200 metri sui rilievi del sud e della Sicilia. Nuove nevicate in serata sulle Alpi occidentali e lombarde. Temperature massime quasi ovunque lieve diminuzione, con freddo accentuato da forti venti orientali, in particolare bora intensa sull'Alto Adriatico, forte grecale sul Tirreno e scirocco in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. Con questo è tutto. A cominciare da oggi, la linea da seguire sarà una curva. Infinity. Design e prestazioni senza compromessi. FX30 DGT. Tua a partire da 52.599 euro. Per maggiori informazioni, visita il sito infinity.it o chiama l'800-764-765 per prenotare un test drive. A cominciare da oggi, c'è Infinity. Traffico dati in aumento su tutte le reti, ingorghi sulla corsia di backup, solo poche aziende sfrecciano sulla corsia di sorpasso. Beh, hanno scelto Fujitsu e Intel. Scopri tutta la flessibilità e la sicurezza dei nuovi storage Eternus DX80S2 Fujitsu con processore Intel Xeon. Per il successo della tua azienda, Storage Eternus di Fujitsu con crittografia built-in. Cambia storage.it 800-466-820. Fai il piano di informazioni a Smao Business, a Bari e Roma. Forse sogni di diventare un direttore d'orchestra o un regista. O forse sogni solo di poter suonare la musica che hai in testa e di raccontare una favola come la vedi tu. Qualunque siano i tuoi sogni, Alitalia ti avvicina con delle offerte speciali che ti aiutano a realizzarli. Acquista entro il 30 gennaio e vola in Italia, in Europa e nel mondo. Ad esempio Roma-Bruxelles da 89 euro e Roma-Pechino da 399 euro. Prezzi andata e ritorno tutto incluso. Scopri tutte le offerte e i dettagli e acquista su alitalia.com. Era una giornata come tutte le altre, finché sono entrato in auto. Mi è sembrato che qualcosa fosse cambiato. Ho attraversato le strade e ho visto le cose muoversi più lentamente. Era il resto del mondo a viaggiare a un ritmo più basso. O ero io che avrò raggiunto il futuro. Con la nuova Audi A4, il futuro ha un nuovo impulso. Con un design più dinamico e motori di ultima generazione. Performance ancora migliori e meno emissioni. Scopritela in tutti gli showroom Audi. 24 mattino. Eccoci qua allora per parlare di questo pacchetto di semplificazioni che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, che prevede diverse facilitazioni per tutti i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. Per questo lo ringraziamo, è con noi il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi. Ministro, buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie di aver accettato l'invito di Radio 24. Senta, intanto sono tante, il Sole 24 Ore oggi nel dettaglio spiega tutte i provvedimenti che sono stati presi, però io vorrei partire da un allarme invece che forse avrà visto lanciato dal Corriere della Sera. Il 40% delle famiglie italiane non ha una connessione a internet in Italia, non c'è dunque il rischio che questa digitalizzazione molto spinta poi si freni per mancanza di connessioni? Sicuramente il problema profilo della connessione internet in genere, della telematica, è un profilo centrale dell'attuazione di questo decreto. Ci sono per la verità molte misure che prescindono da questa esigenza, è un profilo fondamentale soprattutto per quanto riguarda però le amministrazioni, cioè per quanto riguarda il dialogo delle amministrazioni tra loro e in particolare dei comuni, e su questo io ho già preso contatti con il presidente dell'ANCI, che ha dato la massima disponibilità per assicurare che in tempi brevi possano funzionare i collegamenti tra amministrazioni, in particolare tra amministrazioni comunali. Quindi che possano che le amministrazioni si parlino tra loro. Possano dialogare in via telematica tra loro. Ecco, ma invece il fatto che molti cittadini ancora non hanno una connessione, per cui magari un documento è possibile farlo online, ma se uno non ha internet, questo è un problema alla fonte abbastanza serio. Questo è un problema su cui bisognerà giocare, però sarà comunque un vantaggio per il cittadino se le amministrazioni dialogano, quantomeno il cittadino che non ha internet potrà andare in un solo ufficio. Tra l'altro, visto che qua c'è anche Oscar Giannino, il nostro buongiorno. Oscar Giannino, che saluto. Buongiorno a lei. Lei ha stimato, ministro, in 500 milioni più o meno di risparmio, è questa la cifra che ci può dire? Dunque, io posso dare questa cifra di circa 500 milioni in relazione a due semplificazioni rispetto alle quali da circa 2 anni è stata fatta una previa misurazione degli oneri esistenti, che sono quelli in materia di privacy del documento programmatico di sicurezza e quello per quanto riguarda la documentazione cartacea occorrente per partecipare alle gare. Su questo è stato in passato, per la verità, effettuata una misurazione dei relativi oneri informativi, degli oneri amministrativi, stimati in circa 320 milioni per la privacy e in circa almeno 150 per la partecipazione alle imprese. Questa è stata utilizzata una misurazione utilizzando la metodologia dello standard cost model utilizzato anche dalla Commissione europea. Devo dire che ho letto su un settimanale che per le partecipazioni alle gare il risparmio sarebbe notevolmente superiore, ma io non sono in grado di quantificarlo. Senta ministro, io dico dei vari provvedimenti, lo so, il documento d'identità che scade il giorno del compleanno, i documenti più veloci, i cambi di residenza, le comunicazioni, il bollino blu non più annuale, tutte le misure che vengono anche in favore delle persone con disabilità, sono tutte cose. Un provvedimento non l'ho ben capito, il perché concedere la possibilità anche agli autotrasportatori di viaggiare, cioè togliere il divieto del viaggiare il giorno prima delle feste, certo per avere le merci fresche nei nostri supermercati, ma non c'è un rischio di ingolfamento? Io credo che essenzialmente sia quello, e questo va essenzialmente in un'ottica anche un po' di maggiore liberalizzazione. Ritengo che lo scopo fondamentale sia quello di poter assicurare merci, appunto, come lei ricordava, più fresche. Naturalmente ogni cosa ha un piccolo inconveniente, quindi bisogna sempre un po' bilanciare gli interessi e augurarsi di aver fatto la scelta giusta. Le faccio questa domanda e poi chiedo anche a Oscar di aiutarmi su questo. Sul tema delle imprese, intanto, ministro, le sembra giusto che una pubblica amministrazione arrivi a pagare fino a 700-800 giorni un'impresa che lavora, appunto, che aspetta il denaro e che spesso chiude perché non viene pagata, saldata dalla pubblica amministrazione? No, ovviamente la risposta è troppo facile, sicuramente non è giusto, è un problema su cui il governo ci sta mettendo la testa, non è di mia diretta competenza, però è sicuramente un problema prioritario nell'agenda di governo, non è un problema semplicissimo, perché evidentemente una soluzione che costringesse l'amministrazione a contrarre solo con la disponibilità di cassa potrebbe anche avere un effetto recessivo, per cui bisogna, in mancanza di liquidità evidentemente, per cui credo che bisogni anche qui trovare un punto di equilibrio, ma comunque sicuramente affrontare, perché ormai il debito dello Stato inteso in senso unitario, delle amministrazioni verso le imprese e i tempi di pagamento sono diventati decisamente insostenibili per le imprese. C'è da dire, Oscar, semplificare è una cosa, è un verbo bellissimo, no? Tutti ti piacciono, insomma, tutte queste misure o stiamo esagerando con l'ottimismo? Carità, io penso sì che esageriamo con l'ottimismo, ma c'è un punto di fondo. In realtà viviamo anni di annunci di semplificazione, questa volta sono importanti. Sappiamo perfettamente che il punto debole, il tallone di Achille dell'amministrazione pubblica italiana è avere dei meccanismi efficienti e continuativi nel tempo, per cui ciò che viene annunciato come ordinatorio diventa poi davvero invece prescrittivo. Quindi il problema è incalzare con misure obbligatorie la pubblica amministrazione a realizzare quello che poi si annuncia e si indica come svolta. Voglio dire, per esempio, a proposito di imprese, il fatto che si sia preso l'impegno di pubblicare su portali pubblici tutte le misure di controllo assunte nei confronti di ciascuna impresa, perché deve essere evidente che sono proporzionali alla serietà del punto che si vuole chiarire o accertare per ogni impresa. Ecco, questa che è anni luce rispetto a quello che succede adesso come trasparenza, come misura, quindi salutare. Il problema sarà vedere con quali sanzioni si obbliga la pubblica amministrazione a mettersi essa al passo dei i controlli trasparenti, le misure di efficienza qui vengono stabilite, perché sappiamo che negli anni alle spalle abbiamo anni e anni di annunci a cui poi i fatti non seguivano quasi mai. Le sanzioni sono previste, Ministro, per la pubblica amministrazione? Le sanzioni giocano ovviamente e soprattutto sulla responsabilità dei dirigenti e sulla responsabilità dell'amministrazione, per esempio per i ritardi. Questo per la verità già esistono da circa un anno nell'ordinamento, la responsabilità economica dell'amministrazione per i ritardi. Noi abbiamo cercato, come dire, di vedere e di considerare il ricorso al giudice come ultima ratio, perché ovviamente ricorrere al giudice per superare i ritardi ha in primo luogo dei costi e poi a sua volta ha dei tempi. In questa ottica va la previsione molto voluta dal mondo delle imprese del responsabile, come dire, del ritardo, dei ritardi all'interno dell'amministrazione, cioè individuare una persona. È chiaro che le responsabilità funzionano meglio quando c'è un soggetto fisico ben individuato, il quale abbia dei poteri di avocazione sostitutivi nei confronti degli uffici della sua amministrazione per poter emanare egli stesso l'atto, ovviamente se il cittadino o l'impresa ne abbia diritto. Però se posso dire, sì, sono molto d'accordo con quello che diceva. Cioè io faccio un esempio, signor Ministro, cioè, quando i contribuenti vedono ovviamente per ogni secondo di ritardo da ciò che giustamente lo Stato ritiene di dover chiedere scattare immediatamente more, agi e sanzioni, e quando leggono che per esempio per una legge vigente dal marzo 2009 ogni 31 di marzo tutte le oltre 9.000 amministrazioni pubbliche italiane sono ottenute la ricognizione di tutto ciò che hanno, mobili, immobili, concessioni intangible, e che in due anni e mezzo solo il 50,1% dei 9.000 soggetti della pubblica amministrazione ha ottemperato la legge portata del tesoro, quindi noi abbiamo una ricognizione pari alla metà del totale delle pubbliche amministrazioni e l'effetto di questo è sanzione a carico di nessuno. È ovvio che io come contribuente mi sento circuito da un ladro, questo è il punto di fondo, perché il problema è quando metteremo in capo, non tanto, sono d'accordo a lei, il fatto di andare da un giudice che aumentiamo solo il contenzioso della macchina giudiziaria italiana, ma quando metteremo in capo la responsabilità che poi si ripercuotono sulla carriera per esempio dei funzionari pubblici, allora avremo delle cose per le quali, siccome la carriera poi non si tocca mai in Italia, allora io penso che lì forse faremo un passo avanti. Sì, questo credo senz'altro, perché la stessa responsabilità disciplinare potrebbe non bastare. Devo dire che oggi nell'ordinamento è già previsto la responsabilità del dirigente, cioè che venga valutato ai fini della retribuzione di risultato del dirigente il mancato assolvimento di determinati compiti. Il problema, come lei ricorda, ma è una cosa molto vera, è quello di assicurare come dire, che queste cose siano realizzate. Ora io credo che infatti, come dire, ovviamente sono soddisfatto del decreto, non potrei negarlo, però credo che siamo solo agli inizi, cioè la vera sfida è assicurare due cose, attuazione e monitoraggio soprattutto. L'attuazione perché, come se non sbaglio lei ricordava, comunque nell'editoriale del Sole di oggi era detto, ci sono una serie inevitabilmente di decreti attuativi e noi come dire, mi vorrei far fare uno schema e assicurare i tempi di emanazione di questi decreti attuativi che ovviamente servono, ma accanto al decreto attuativo poi serve il monitoraggio direi per tipologia di amministrazione che le norme introdotte, alcune già esistenti, servano. Ministro, le chiedo questo, come si motivano i dipendenti pubblici di fronte a questa nuova sfida semplificazione? E le chiedo anche brutalmente, secondo lei un dipendente pubblico in media guadagna abbastanza o dovrebbe guadagnare di più? Dunque, allora, i dipendenti pubblici in periodi come questi di magra è difficile motivarli sul piano economico, nel senso che le risorse disponibili sono quelle che sono. Noi cercheremo di coinvolgere i dipendenti e le organizzazioni sindacali perché nei processi di riorganizzazione delle amministrazioni che stiamo avviando gradualmente si riescono ad ottenere dei risparmi che già per la legge vigente possono essere destinati alla contrattazione di secondo livello. Se il dipendente pubblico guadagna abbastanza o no, ovviamente dipende dal livello del dipendente. Il problema è che ancora la retribuzione non è abbastanza differenziata in relazione alla sua produttività. Per fare questo occorrerebbero più risorse che non ci sono. Cercheremo di farlo in primo luogo motivando. Ministro, non ci siamo, abbia pazienza, intervengo a piedi uniti, non ci siamo, perché lei sa meglio di me, con Brunetta la questione era che una parte non aggiuntiva, ma una parte crescente nel tempo del totale andava data a percentuali diversificate sul totale del personale per premiare il merito, diciamo. Esattamente. Così. E il sindacato, diciamo le cose come stanno, ha ottenuto invece che questa logica fosse adottata solo per la parte incrementale, poiché a parità di qualifica, lei mi insegna che il dipendente pubblico ha avuto nei 10-15 anni a questa parte rispetto a parità di qualifica del privato più soldi, adottare questa logica e dire che ci vogliono risorse incrementali significa non voglio farla, signor Ministro, lei dovrebbe tornare all'impostazione precedente, altrimenti ci stiamo prendendo per i fondelli e qui non ci piace questa roba. No, no, certo, io non ho alcuna intenzione di prendere per i fondelli, questo è un problema sicuramente serio, però lei converrà che in un periodo di nulle risorse da destinare alla contrattazione non è che sia un problema facilissimo. Lo so, i sindacati sono la Bottarogna. No, lo dica, ministro, verranno... lo dica. No, i sindacati vanno affrontati, come dire, io penso che bisogna sentire tutti e poi dopo ognuno deve decidere secondo il proprio ruolo e la propria responsabilità, e su questo convengo con lei decisamente. Allora, ministro, facciamo così, ci sono le informazioni sul traffico, poi vorrei parlare un po' di questa storia del valore legale del titolo di studio della laurea, perché c'è stato, pare, e non ce lo negherà, uno scontro o un dibattito serrato in Consiglio dei Ministri su questo. Allora, siamo con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, con noi anche Oscar Giannini in studio. Ministro, lei a che età si è laureato? Io mi sono laureato nel 77, avevo quasi, chiedo scusa, nel 70. Quindi avevo quasi 22 anni. Quindi lei proprio non è per nulla uno sfigato, secondo secondo il viceministro Martone. Lei li avrebbe definiti sfigati? Ma io credo, ora io non ho ascoltato la cosa, credo che questa sia stata un po' una semplificazione. Diciamo che ci sono problemi complessi, ci sono studenti che non studiano perché non studiano, ci sono studenti che non studiano perché magari debbono contemporaneamente lavorare, ci sono situazioni familiari più facili, ci sono situazioni familiari più difficili, per la verità. In ogni caso, sul valore legale del titolo di studio, lei intanto è per abolirlo oppure no, come voleva il Premier Monti oppure no? Bisognerebbe prima capire che cosa significa abolirlo, forse bisogna prima capire che cos'è il valore legale del titolo di studio. Sabino Cassese 2-3 anni fa disse che quella del valore legale era una nebulosa, cioè un qualcosa evidentemente cui contorni fosse difficile cogliere. Io credo che nessuno in Italia, ma non solo in Italia, pensi che l'abolizione del valore legale significa che uno possa presentarsi, che so, a un esame di Stato per medico senza avere una laurea e magari una laurea in medicina. Il problema probabilmente da affrontare sono essenzialmente due. Quello del fatto che con il valore legale ovviamente la laurea da qualunque università rilasciata e con qualsiasi percorso di studi seguito ha lo stesso valore formale. Questo è un problema, può essere una distorsione, ma evidentemente risolvere questo problema significa risolvere il problema del peso degli atenei e dei percorsi di studi. Poi c'è un'altra distorsione, probabilmente, che è quella dell'utilizzazione del punteggio di laurea, per esempio, per l'ammissione ai concorsi pubblici. Su questo, però, mi rendo conto anch'io che è una questione opinabile, per cui è giusto discuterne. Io personalmente ritengo un po' il contrario di quello che mi è stato attribuito da un quotidiano. Cioè, io ritengo che il punteggio della laurea non possa costituire una barriera alla partecipazione a un concorso pubblico per esami. perché nel concorso pubblico per esami ciò che conta è dimostrare di saper superare al meglio la prova concorsuale. Perfetto, quindi se io voglio fare un concorso per la Corte dei Conti non è necessario che sia laureato, non so, in economia piuttosto che in economia in quell'ateneo. L'importante è come va il concorso, secondo lei. Come... Io devo essere laureato. Sì, certo, certo, questo sì. Sia pure con alcune cautele sia giusto che io sia laureato. Detto questo, non ritengo che però io possa dire puoi partecipare al concorso solo se hai 110. Per il motivo che le dicevo prima. Le chiedo questo, sulla spending review, lei sta studiando tra l'altro questo dossier, tra gli altri ministri, che vuol dire dove lo Stato può tagliare, per farla in maniera brutale. Ci può anticipare dove la pubblica amministrazione è il primo taglio che lei farebbe, domani, oggi, adesso? Probabilmente sugli uffici strumentali, cioè io cercherei di accorpare gli uffici di più amministrazioni, quelli che acquistano i beni, quelli che gestiscono il personale, quelli che si occupano della manutenzione dei beni, li accorperei per più amministrazioni in un unico ufficio. Magari anche i tribunali piccoli, non so, per esempio li cancelliamo, lei è anche magistrato. Sì, per i servizi strumentali questo si potrebbe fare anche per i piccoli tribunali, però per saperlo meglio bisognerebbe chiederlo alla collega Severino. Io credo che anche la revisione finalmente delle circoscrizioni giudiziarie, di cui sentivo parlare non di quando sono entrato io in magistratura, ma quando c'è entrato mio padre in magistratura, che su cui si sta finalmente mettendo mano, vada in quest'ottica. Lì si tratta dell'ottica di razionalizzare proprio il servizio giustizia, i tribunali. Credo che si possa fare il passo ulteriore di accorpare uffici di servizio, di supporto, uffici strumentali alle attività delle amministrazioni. Ministro, dopodiché, ecco, io e Oscar Giannino non saremmo giornalisti se non le facessimo questa domanda. Lei è stato molto chiacchierato quando è stato nominato, no? Per la vicenda della casa comprata con tutto in regola, le cartolarizzazioni dell'INPS, 109 metri quadri, credo, comprato però a un prezzo molto al di sotto del prezzo di mercato, perché quello... Lei in un'intervista ha detto anche non ci dormo la notte per questa casa. Allora, in primo luogo posso dire di aver dormito meno per preparare con i miei collaboratori il decreto semplificazioni. Per quanto riguarda la vicenda della casa, in più sedi, come dire, spero chiarite, però ogni occasione è buona per chiarire ulteriormente. Forse due cose non si sono tenute presenti. In primo luogo che il famoso prezzo di mercato era un prezzo di mercato del 2000, quindi ben prima della bolla immobiliare, questo lo era per legge, ed era un prezzo abbattuto perché si trattava di un immobile in cattive condizioni e soprattutto occupato, che come loro sanno incide poi sulla quotazione di mercato. Ma la seconda cosa che credo che sia più importante, perché perché serve per eliminare, credo, questo dubbio di una sorta di privilegio, è che quel principio affermato dalla giurisprudenza nel caso del nostro condominio, secondo cui l'ubicazione dell'immobile non era sufficiente se l'immobile è in stato di degrado per qualificarlo di pregio, era frutto di moltissime sentenze precedenti a quella ed è stato poi ribadito con una giurisprudenza costante da molte sentenze successive. No, ma dal punto di vista delle sentenze non c'è dubbio, però non so, per esempio hanno notato molti che in una perizia è stato definito in area sismica laddove a Roma. Io confesso di non aver riletto la perizia. Io credo che il verificatore avesse voluto dire semplicemente che bisognava di interventi particolari di ristrutturazione e tecnicamente che quindi credo che qualificasse gli interventi di ristrutturazione questa cosa dell'area sismica. Signor Ministro, ma al di là dei particolari, lei si sente di dire che un cittadino qualunque, se fosse stato titolare di quell'appartamento, avrebbe avuto le stesse sentenze che ha avuto lei? Cioè, questa è la domanda, agli occhi del cittadino qualunque. Nel merito delle perizie e dell'iter. Il cittadino pensa, ma se piuttosto che avere colleghi magistrati amministrativi o magistrati al Consiglio di Stato eccetera eccetera su questo tipo di sentenze, che sono poi quelle che intercorrono quando c'è un contenzioso di questo tipo, il cittadino qualunque avrebbe avuto lo stesso esame, la stessa attenzione che ha avuto lei? Questa è la domanda che tutti ci pongono. E come le ho forse non chiaramente detto prima di questa sentenza che ha riguardato me e i miei condomini, c'erano state numerose altre sentenze affermato esattamente lo stesso principio, che quindi riguardavano altri cittadini. Quindi lei dice sì, quindi per tutti si sono comportati con lei come con tutti gli altri. Sì, c'era una giurisprudenza che si chiama in senso tecnico consolidata. Perfetto, ministro, noi dobbiamo concludere. Un'ultima, l'altra accusa che ne hanno fatto è di aver percepito per due volte lo stesso stipendio, cioè da magistrato e anche da cariche che aveva come funzionario pubblico. C'è stato un periodo in cui ha accumulato due stipendi. Questo è stato un periodo in cui, come è previsto per la legge e come era previsto per tutti ancora una volta, era possibile, era il meccanismo della retribuzione dell'incarico, era dato che una parte restasse a carico dell'amministrazione di provenienza e poi ci fosse un'indennità, che almeno nel caso mio non ha mai ovviamente superato lo stipendio. E ora questa cosa in linea di massima non c'è, o per meglio dire c'è in misura molto ridotta. Attualmente io invece prendo il normale stipendio pubblicato. Ministro Di Aretta, per i decreti attuativi faccia una cosa, minacci i colleghi che se non fanno nei tempi giusti ogni mese per mese, perché sarà il concerto come le sa la cosa che le mancherà, lei fa l'elenco ogni mese pubblico delle firme che mancano dei colleghi ai decreti attuativi, perché altrimenti l'esperienza ci dice che lei alla fine la mandano indietro, perché diranno tutti di avere di più emergenze da fare. Lei dica è colpa di Tizio e Caio, questo c'è. Aspettiamo. Intanto la ringraziamo, ministro, per essere stato con noi, Filippo Patroni Griffi, ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione. La linea rimane a Oscar Giannino, avete sentito oggi com'è agguerrito. Noi ci troviamo domani alle 7:20.